Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si è trattato di un vertice straordinario, anche in termini di complessità, in linea con l'elevata posta in gioco. L'intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale che ci spinge ad affermare senza enfasi che l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino. Questo è uno dei passaggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, del Presidente del Consiglio Conte oggi nella sua informativa in Parlamento sul risultato ottenuto appunto dopo questa lunghissima, infinita maratona negoziale, questa trattativa a Bruxelles tra i 27 paesi per gli aiuti economici ai paesi che più sono stati colpiti dal coronavirus e che quindi hanno più bisogno di fondi, di aiuti per rilanciare l'economia. E ha detto anche, a parte che l'Europa è stata all'altezza, ha detto la classe politica ha dato prova di grande maturità. Ne parleremo, abbiamo parlato diciamo molto spazio ieri sia da un punto di vista del risultato ottenuto e dei rapporti dentro l'Unione Europea, di come è andata la trattativa, ma anche poi dal punto di vista delle ricadute sulla politica interna, con chi ha approvato, chi no, eccetera, anche all'interno dell'opposizione. Poi, fra le molte cose, questa sera parleremo anche di questa inchiesta piuttosto sconcertante di carabinieri arrestati nella caserma Levante di Piacenza per gravi reati. C'è poi il rapporto Istat che dice sull'istruzione in Italia, che dice che il nostro paese ha il triste primato in Europa per i giovani NEET, cioè i giovani che né lavorano né studiano. E c'è anche un allarme sui banchi scolastici. Ma non vi anticipo più di tanto perché dovete seguire naturalmente tutta la puntata di Effetto Notte. 349-238-6666, se volete, è sempre il numero per WhatsApp per commentare. 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, per il Twitter Roby con la Y linetta bassa Giordano. I dati sul coronavirus in Italia, i contagi risalgono, i nuovi casi sono 282 in 24 ore, 9 sono i morti. Il coronavirus nel mondo, l'OMS parla di dati preoccupanti in Europa del Sud e Balcani e secondo i dati della Johns Hopkins University ci sono oltre 15 milioni di casi di coronavirus nel mondo, le vittime sono salite a 617.832. Gli aiuti economici dell'Unione Europea, Conte in Parlamento dice, è una vittoria di tutto il Paese e stasera in Consiglio dei Ministri il nuovo scostamento di bilancio e la decisione sulla proroga dello stato di emergenza. Inchiesta a Piacenza, torture, estorsioni e spaccio, 6 carabinieri arrestati, sequestrata una caserma. Scuola fornire a settembre i nuovi banchi è secondo i produttori un'impresa impossibile nei tempi richiesti e secondo il rapporto dell'Istat sull'istruzione l'Italia ha il triste primato in Europa dei giovani che non studiano e non lavorano. Una norma del decreto semplificazioni dice che i sindaci non potranno vietare l'installazione di reti 5G. Partiamo quindi dai dati sul coronavirus in Italia e nel mondo. Risale il numero di nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro paese. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 282 a fronte dei 129 di ieri. Le nuove vittime sono invece 9 per un numero complessivo dall'inizio della pandemia in Italia di 35.082 decessi. Diminuiscono le vittime in Italia, 9 contro le 15 precedenti, ma aumentano di più del doppio i contagi, che sono 282, tra questi 51 in Lombardia, superata questa volta dall'Emilia-Romagna che ne ha registrati 57. 36 nuovi casi in Veneto, la Basilicata ne conta altrettanti, tutti legati ai migranti dal Bangladesh trasferiti dalla Sicilia. 20 nuovi contagi in Trentino, 16 dei quali nel cluster di Rovereto. La battaglia contro i focolai prosegue ancora più aspra in Spagna, che ne conta ormai 224 con oltre 2.600 contagi. Ma a preoccupare di più in questo momento l'OMS è l'Europa del Sud e quella dell'Est, con la Romania che registra un nuovo record di infezioni, 1.030 in 24 ore. Nel mondo i casi sono ormai più di 15 milioni. Insieme a USA e India preoccupa il Brasile, dove nelle ultime 24 ore ci sono state altre 1.400 vittime e 40.000 contagi. Ancora positivo il presidente Bolsonaro dopo la scoperta della malattia lo scorso 7 luglio. Le buone notizie arrivano dalla scienza. Dopo la pubblicazione su Lancet dei progressi nella sperimentazione dei vaccini ad Oxford e in Cina, la rivista Nature ha dato conto dell'avvenuto isolamento alla Columbia University di New York dei cosiddetti superanticorpi, quelli cioè che si sono mostrati più efficaci contro il virus. Tornando alla nostra situazione, il governo deciderà questa sera se prorogare o meno lo stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre. Il Consiglio dei Ministri, fissato per le 21, sarà anticipato da un vertice di maggioranza convocato da Conte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito del vaccino, proprio ieri qui a Effettonote si è riparlato, vi ricordate, del vaccino in collaborazione tra Italia e Gran Bretagna col presidente del laboratorio italiano IRBM di Pomezia. Siamo adesso sugli aiuti economici dell'Unione Europea, di cui Conte ha parlato oggi nella sua informativa in Parlamento. Con l'accordo sul Recovery Fund l'Unione Europea si è dimostrata all'altezza della sua storia, dice il Premier Conte, che in Parlamento rimarca i risultati ottenuti nella lunga e difficile trattativa a Bruxelles. 209 miliardi di aiuti per l'Italia, ora però dobbiamo andare avanti con il piano per il rilancio del Paese, sul quale ci sarà un confronto con il Parlamento, aggiunge il Presidente del Consiglio. Questo governo si assume la responsabilità di predisporre e realizzare questo piano con impegno, determinazione, lungimiranza. Conte conferma che ci sarà una task force sulle riforme, ma prende invece tempo sul MES, nonostante il pressing del segretario del PD Zingaretti, che con il resto della maggioranza giudica comunque un successo l'accordo raggiunto a Bruxelles. Scettica invece l'opposizione, il segretario della Lega Salvini. Gran parte di questi soldi arriveranno nei prossimi anni. Aiutiamo le famiglie e le imprese adesso, perché domani rischia di essere troppo tardi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa sera nel Consiglio dei Ministri, oltre alla decisione sull'eventuale proroga dello stato di emergenza, come avete sentito, si parlerà anche, si deciderà lo scostamento di bilancio. E adesso invece spostiamoci sull'inchiesta a Piacenza che lascia sconcertati. Siamo di fronte a reati impressionanti se si pensa che sono stati commessi da militari dell'Arma dei Carabinieri. Questo l'ha detto la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, a proposito dell'arresto di 7 carabinieri della stazione di Piacenza Levante, con le accuse di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali, peculato, abuso d'ufficio e falsità ideologica. Ma vi rimando tra poco qua nel corso di questa puntata per ulteriori dettagli su questa inchiesta. Un'altra indagine questa di Assorin, la farmaceutica di Assorin è stata favorita nell'accordo con la fondazione del Policlinico, il Policlinico San Matteo di Pavia, per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid-19. Ora non è solo un'azienda concorrente che ha presentato denuncia a pensarlo, ma anche una procura, quella di Pavia, che ha aperto un'inchiesta su 8 persone tra i vertici del San Matteo di Pavia e della multinazionale farmaceutica piemontese, facendo perquisire uffici e abitazioni, sequestrando agende, appunti, materiali informatici e la corrispondenza di posta elettronica contenuta anche in server aziendali. Siamo in mercati, seduta nervosa, terminata in rosso per le borse europee, sulla scia delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina, del continuo aumento dei contagi nelle Americhe e delle preoccupazioni sulla ripresa economica nonostante i massicci interventi di banche centrali e governi. Così Milano ha chiuso in calo dello 0,6%, Parigi dell'1,32%, Francoforte dello 0,51%, Madrid dell'1,4% e Londra dell'1%, scoraggiate soprattutto dal fatto che Washington ha ordinato la chiusura del consolato cinese generale di Houston in Texas. Come nei romanzi di John Le Carré, una sottile ma insolita colonna di fumo saliva da bidoni della spazzatura nel cortile del consolato cinese di Houston. La polizia, allertata per pericolo di incendio, non ha avuto accesso all'edificio. In cenere, forse, documenti e materiali considerati delicati, ma non è un romanzo e in cenere rischiano sempre più di finire le tese relazioni tra Washington e Pechino. Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato l'immediata chiusura dell'avamposto diplomatico di Xi Jinping in Texas, che serve l'intero sud del paese ed era stato il primo ad aprire dal momento della bilaterale negli anni 70. L'amministrazione di Donald Trump l'ha accusato d'essere nei fatti un covo di spie, affermando che la chiusura e l'espulsione del personale serve a proteggere la proprietà intellettuale e informazioni private degli americani. La Cina ha negato ogni accusa, ha definito l'atto una follia e una provocazione, alla quale risponderà. Quel che è certo è che il clima tra le due maggiori potenze economiche al mondo continua a peggiorare su più fronti. Washington ha varato sanzioni in risposta a giri di vite di Pechino contro Hong Kong. Nelle ultime ore ha incriminato due hacker cinesi per aver infiltrato ricerche sui vaccini anticoronavirus di ordine dell'intelligence di Xi, mentre preme per boicottaggi internazionali dei colossi delle telecomunicazioni e dell'high tech cinesi, ritenuti una minaccia di sicurezza nazionale, e rimane ai ferri corti sul commercio come sulle responsabilità per la pandemia globale. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Parliamo adesso di scuola, tornando sulle questioni italiane. I produttori di banchi per le scuole insorgono e dicono: in 23 giorni dovremo concentrare la produzione di 5 anni, annunciano il bando di Arcuri andrà deserto, ma la ministra Azzolina conferma: il 14 settembre le scuole aprono e sui banchi assicura non ci sono direttive univoche per l'utilizzo dei banchi singoli nelle scuole per garantire il distanziamento sociale e faremo quello che ci chiedono i dirigenti scolastici degli istituti di tutta Italia. Poi altra notizia, gli italiani sono fra gli ultimi in Europa per livello di istruzione, il 62,2% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha almeno il diploma in Europa, nell'Unione Europea, a fronte del 62, nell'Unione Europea il 78,7%, e poi abbiamo il primato dei giovani che non studiano e non lavorano. Comunque sottoporrò entrambe queste notizie a Patrizio Bianchi nel corso di questa puntata della Task Force del Ministero dell'Istruzione. Estero, il presidente turco Erdogan ha invitato diversi leader internazionali alla prima preghiera islamica che si terrà venerdì a Santa Sofia, a seguito della riconversione dopo 86 anni da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul. Attesi l'emiro del Qatar, il presidente dell'Azerbaigian, viene inoltre data come probabile la presenza del premier del governo libico riconosciuto dall'ONU al-Sarraj, di cui la Turchia è la maggiore sostenitrice militare. Gruppi di soldati turchi sono stati richiamati d'urgenza nelle scorse ore nell'area del Mar Egeo sudorientale dalle proprie licenze estive dopo le tensioni con la Grecia per l'avvio di una missione di esplorazione energetica di Ankara tra l'isola greca di Castellorizzo e la costa turca di Kas. Nell'area le rispettive marine militari sono state poste in stato di allerta. Di nuovo in Italia con la cronaca, un 12enne è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini-Kronberg a Gorizia. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a una trentina di metri di profondità sul fondo del pozzo. Ancora non sono state accertate le cause dell'incidente, il ragazzino era lì con il suo centro estivo. I sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. E quanto si legge sul sito del Dipartimento dell'Innovazione in base alle previsioni contenute nel decreto semplificazioni sul 5G. Una notizia che arriva dalla Svezia. Per la prima volta nella storia in Svezia ci sono più preti donne che uomini, lo ha annunciato la Chiesa svedese precisando che sui 3.060 preti che servono nel paese, 1.533 sono donne. Nel 1990 era stato previsto che nel 2090 le donne avrebbero rappresentato la metà del clero svedese, il processo è stato molto più veloce, ha spiegato la portavoce Christina Greenholm. La Chiesa svedese e luterana ha autorizzato le donne a prendere i voti nel 1958, dalla separazione tra Chiesa e Stato nel 2000. I corsi di teologia sono stati presi in Svezia d'assalto dalle studentesse che nel 2013 hanno rappresentato il 70% del totale. In molte parrocchie della Svezia la messa è servita da un prete uomo e una donna, tuttavia anche in questo ambito si registra un divario tra gli stipendi. La differenza tra il guadagno di un pastore uomo o di una donna è di circa 2.200 corone svedesi, circa 215 euro al mese, tanto per cambiare. Secondo Grenholm questo dipende dal fatto che ci sono più uomini ai posti di comando della Chiesa. Per chiudere, lo sport con Dario Ricci che ci aggiorna sulle partite di Serie A maschile. Caro Dario, ecco a te. Sì, eccoci qua, 35esima giornata che vive questa sera il suo club con ben 6 match. Siamo all'86esimo di gioco a Parma. È 1-1 tra Parma e Napoli, Parma che è passato in vantaggio con Caprari su calcio di rigore allo scadere del primo tempo, il pareggio di Insigne nella ripresa, ma proprio adesso, proprio in questo istante, al Parma è stato assegnato un altro calcio di rigore per il contrasto in area tra Koulibaly e Kulusevski. Adesso c'è tutta, come sai, la ritualità lunga ed estenuante della VAR, ma il rigore è assegnato e quindi adesso va proprio sul pallone, ci va Kulusevski. Mentre si prepara, io vi racconterò chiaramente la trasformazione, vi ricordo che dalle 21.45 in campo Inter-Fiorentina, Lecce-Brescia, Sampdoria-Genoa, il derby della Lanterna, Spal-Roma e Torino-Verona. Ecco intanto Kulusevski che prende rincorsa, siamo all'87esimo, partita che non ha particolari significati di classifica, ma Parma che cerca la vittoria anche per uscire da una fase di crisi piuttosto prolungata. Il gol di Kulusevski, quindi all'87esimo di gioco, Parma 2-1 al Tardini. E abbiamo pure seguito il rigore con Dario Ricci. Grazie Dario, ci aggiorniamo poi dopo sull'esito di questa partita e su quella che poi inizierà alle 21.45. Intanto però dobbiamo approfondire una serie di temi, tra poco con gli ospiti, quindi per i vostri messaggi continuate tra la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per i WhatsApp. Tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata e poi gli ospiti ad approfondire alcuni temi in particolare e naturalmente anche i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666 per i WhatsApp, dove Francesca per esempio scrive: cara Roberta, sono curiosissima di sapere come Conte spenderà i famosi recovery fund che ha ottenuto con tanta fatica, dice così Francesca. Allora proviamo a scoprirlo. Il volume complessivo è stato confermato, pari a 750 miliardi di euro e quindi nel complesso la iniziativa, questa proposta, è rimasta integra quanto alla sua portata economica. Lo ha sottolineato Conte, Presidente del Consiglio, oggi nella sua informativa in Parlamento relativa all'accordo appunto di ieri a Bruxelles, raggiunto dopo singolare ed estenuante tensione, come sapete abbiamo raccontato tutta questa maratona qui a Effetto Notte, quindi accordo sul bilancio europeo e soprattutto sui recovery fund, aiuti economici tra prestiti e sussidi per i paesi che più necessitano dopo essere stati colpiti pesantemente dalla pandemia di coronavirus, appunto, di un rilancio della propria economia. All'Italia, dicevo già ieri, va il 28% del totale dei fondi stanziati, quindi 209 miliardi, la quota più grande dei fondi, di cui 81 miliardi a fondo perduto, quindi non devono essere restituiti. Una giornata storica l'hanno definita ieri i vari protagonisti e oggi Conte ha ribadito: con l'accordo l'Unione Europea sono state prese decisioni di portata storica, dice, l'Unione Europea è stata all'altezza della sua storia. Si è trattato di un vertice straordinario anche in termini di complessità, in linea con l'elevata posta in gioco. L'intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale che ci spinge ad affermare senza enfasi che l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione, del suo destino. E poi il Conte ha anche detto, mentre saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, bentornato. Buonasera a tutti. Conte ha anche detto che questa decisione, dopo questa lunga trattativa a Bruxelles, ha cambiato anche la prospettiva stessa dell'Unione Europea. L'Unione Europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica, sociale che si è manifestata simmetrica e sistemica, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive, modelli di sviluppo. Nel corso di questi drammatici mesi l'Unione Europea ha saputo rispondere con coraggio, con visione, fino ad assumere ieri la decisione di approvare per la prima volta un ambizioso programma di rilancio, finanziandolo tramite l'emissione di titoli di debito autenticamente europei. Si è realizzato ieri un radicale mutamento di prospettiva. Allora Alberto, Di Maio oggi, ministro degli esteri, Movimento 5 Stelle, ha detto: questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l'Italia, a chi soffia sul fuoco della rivolta, a chi gioisce sui fallimenti altrui perché non ha alcun successo da reclamare. Il Movimento, il Premier Conte e tutto il governo, dice Di Maio, hanno riportato il paese al centro dell'Unione Europea, adesso avanti con riforme ambiziose e concrete che mettano al centro gli italiani. Allora penso che si riferisse, senza dire nomi e cognomi, a Matteo Salvini, leader della Lega, visto che dall'opposizione ieri Berlusconi ha detto sì, è un compromesso, ma alla fine è un buon compromesso. Meloni ha detto l'Italia è rimasta in piedi con questo risultato, anche se adesso bisogna vedere come, che cosa si farà davvero di concreto. Per esempio Santanchè, che magari poi sentiamo, ha detto ma questi soldi probabilmente arriveranno in ritardo rispetto ai bisogni che ci sono. Sentiamo però Salvini che cosa ha detto. Questo è il primo caso di un prestito dove però gli dicono, amico mio, i soldi del prestito, che sono peraltro tuoi soldi perché me li hai pagati tu negli anni, li spendi come ti dico io. Ecco, secondo te questo è una delle ombre tra le varie luci che riguardano questi fondi stanziati per l'Italia come per altri paesi che ne hanno bisogno? Il fatto che i paesi debbano, e l'Unione Europea, la Commissione Europea debba controllare e verificare. Ma insomma è un po' triste, diciamo la verità, il dibattito poi del giorno dopo di un'opposizione che non ha saputo essere all'altezza anche di essere statisti, diciamo così, pur rimanendo nell'opposizione, perché il discorso va fatto sull'Europa, non su interessi di bottega che sono stati in parte anche raccontati come elemento della trattativa forte che ha contrapposto l'Europa, per così dire, calvinista, l'Europa weberiana, diciamo così, del capitalismo appunto weberiano, e quella invece più mediterranea, più abituata ad altro tipo di gestione del denaro e delle compatibilità economiche. Ebbene, tutto questo, voglio dire, in realtà ha fatto fare un passo in avanti davvero all'Europa. Quella di ieri è un accordo che potremmo dire la Maastricht 2 o l'anti-Maastricht, a dire il vero, perché sono stati, come avete detto tante volte anche voi, insomma, istituiti gli Eurobond. L'Europa ha sicuramente dato un colpo forte verso un'unificazione che porti magari alla Federazione degli Stati Europei. È scritto in questo protocollo che ci sarà un'emissione di tasse comune, piaccia o no, plastic tax, digital tax, carbon tax, diventeranno una cosa concreta che saranno uno degli elementi per finanziare il nuovo fondo. Questo vuol dire che c'è un passo di convergenza verso le politiche fiscali e le politiche economiche. Dopo che era stata creata artificialmente l'idea della moneta e non era seguita, come diceva sempre Ciampi, in questa zoppia istituzionale non era seguita l'Europa politica. Ebbene, questo è sicuramente un colpo forte dato dall'Europa politica. Potrebbe addirittura portare a una convergenza delle politiche di bilancio, addirittura alla creazione in un futuro non troppo remoto di un ministro dell'economia o del tesoro unico, e quindi è sicuramente un segno che fa vedere una traiettoria di unificazione adesso abbastanza visibile, se i vari partner non si faranno prendere dalle pazzie diciamo del loro ombelico. Ecco, diciamo, il dibattito poi che è seguito in Italia è un po' triste. Alberto, a questo proposito c'è per esempio un tweet di Carlo Cottarelli, se sappiamo, ex commissario per la spending review, la revisione della spesa, e direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, che ha scritto: raggiunto l'accordo per 209 miliardi all'Italia e c'è già chi lo critica, ne volevamo di più, non volevamo prestiti ma solo regali, non vogliamo giustificare come i soldi saranno spesi. Oh, dice Cottarelli, ma vi hanno mai detto che Babbo Natale non esiste? Vabbè. No, è perfetto come tweet, cioè sicuramente così. E adesso poi, entrando nel dettaglio delle cose, sicuramente bisogna ragionare. È una sfida verso di noi, dobbiamo imparare a spendere, a investire, a progettare il nuovo paese, progettare un'Italia dal 5-10 anni data. E non è una cosa che non sappiamo fare, abbiamo dimostrato con tutti i governi di tutti i colori possibili e immaginabili di non saper fare. E infatti Alberto, varie ascoltatrici e ascoltatori anche ieri e anche oggi si chiedono come verranno spesi questi soldi e soprattutto quali sono le riforme che ci chiede l'Europa. Però prima farei sentire Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che diciamo non è mai stato molto tenero con questo governo dall'inizio, seppure ne faccia parte della maggioranza. Sentiamo questo passaggio di oggi a proposito dell'esito dell'accordo di Bruxelles. Lei è stato bravo e noi gliene diamo atto, perché lei ha fatto l'interesse del Paese in un quadro di ideale europeo. Noi la apprezziamo per questo e le diciamo che se questa sarà la strada su cui il governo dovrà proseguire, saremo sempre più convintamente al fianco suo. Renzi parlava con riferito a Conte, però sentiamo anche Santanchè di Fratelli d'Italia. La nostra preoccupazione è che questi soldi arriveranno troppo tardi, quando le imprese avranno già chiuso, con un ulteriore problema che aumenterà moltissimo il tasso di disoccupazione. Alberto, quindi Recovery Fund, risultato 209 miliardi per l'Italia, la quota maggiore stanziata nel complesso dall'Europa, però qualcuno ritorna sul MES, per esempio Zingaretti, segretario del PD, e uno dei due maggiori partiti del governo, ma sappiamo che il MES, che sarebbero poi i fondi da spendere per la sanità, sono visti con sospetto non solo dall'opposizione, tranne Berlusconi, tranne Forza Italia, che invece è favorevole, ma anche dal Movimento 5 Stelle, per esempio, che continua a frenare. E lo stesso Conte ha detto basta con questa ossessione del MES. Però a proposito della tempistica, è vero che quei soldi del MES arriverebbero molto prima rispetto a quello, per esempio, che ha detto Daniela Santanchè, che c'è il rischio che quelli di Recovery Fund arrivino troppo tardi rispetto alle esigenze di un paese in crisi? No, beh, i tempi sono fondamentali, è una lotta contro il tempo per utilizzare i finanziamenti che l'Europa ha messo a disposizione. E il Recovery Fund nella sua veste istituzionale muoverà i primi passi nella seconda metà del 2021, quindi ci sono una decina di mesi, diciamo, a dire il vero, da coprire. C'è la possibilità di anticipare le garanzie e noi potremo beneficiare intorno ai 20 miliardi, cosa che già è abbondantemente inserita nei programmi che ha fatto Gualtieri, sia nell'aumento dello scostamento del deficit che verrà deciso questa sera al Consiglio dei Ministri, sia nelle prime bozze della manovra di correzione di settembre. È chiaro che nelle more l'utilizzo del MES sembra la cosa più razionale, 36 miliardi a disposizione per far fronte al piano di rilancio della sanità, che peraltro il ministro Speranza ha già messo in campo, e Cuba 32-34 miliardi guarda caso, vuol dire utilizzare quel tipo di canale di finanziamento e poter utilizzare le risorse liberate per fare altro, evidentemente. Però da noi, appunto, ancora una volta c'è questa assurda guerra di religione sul MES, che vede appunto spaccato sia l'opposizione che sia la maggioranza, che contraddistingue appunto una discussione politica non all'altezza della situazione che stiamo vivendo, detto in tutta franchezza. Alberto, adesso ti faccio sentire, perché molti ascoltatori sulla questione delle riforme stanno scrivendo quali sarebbero per loro quelle prioritarie sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666 con i WhatsApp. Sentiamo, a proposito di riforme, che cosa ha detto, le annunciate, e Conte ha detto appunto che questo ammontare di risorse verrà impiegato per rendere il paese più moderno, eccetera, eccetera. Investimenti. Tajani, oggi vicepresidente di Forza Italia, era ospite di 24 Mattino. Ma io credo che sia stato un fatto positivo per l'Europa. Se non fosse stata in grado l'Unione di approvare il recovery plan, avrebbe segnato veramente un passo verso la fine dell'esistenza politica. E invece si è fatto un passo in avanti, un fatto assolutamente positivo, che dimostra che questa Europa è stata più solidale rispetto all'Europa del 2008, quando ci fu la crisi di Lehman Brothers. Adesso bisogna vedere poi come si utilizzeranno questi soldi. Per l'Italia è stato un risultato positivo, credo, ma si tratta soltanto della prima tappa, perché quei soldi non sono ancora arrivati. Bisogna fare un piano di riforme serio, credibile, che ci permetta di utilizzare sia le disponibilità a fondo perduto, sia quelle previste a prestito. Quindi adesso si tratta di lavorare seriamente. Ecco perché Berlusconi ha detto coinvolgete le opposizioni, perché non si può pensare di fare un piano delle riforme soltanto con la volontà della maggioranza, quando poi le opposizioni rappresentano più della metà del paese, almeno per quanto riguarda i governi regionali. E questo, Alberto, mi sembra giusto, ma ti leggo molto velocemente alcuni dei tanti messaggi. Giovanna dice, per priorità delle riforme, sanità pubblica, che sia veramente pubblica, istruzione, università e ricerca, snellimento burocratico, difficilissimo a causa dell'intrecciarsi di competenze, eccetera, eccetera, riforma del titolo quinto della Costituzione. Giorgio dice, via tutti i provvedimenti improduttivi, a partire dal reddito di cittadinanza, poi abbassamento, dice, graduale per livelli in cui ci troviamo della pressione contributivo fiscale, investimenti in ricerca e anche soprattutto assieme al privato in scuola, università, cultura. Martino dice giustizia, snellimento della pubblica amministrazione, produttività, Fabio, abbiamo una sola cosa che nessun altro al mondo, i beni artistici, puntare sul turismo in modo serio, le nostre uniche bellezze. Per Alberto, prima riforma, eliminare i vitalizi, eliminare una camera, un solo mandato per tutti, niente benefit, eccetera, eccetera. Per Elena, la sburocratizzazione e la scuola. Poi Fabio dice le pensioni, la lotta all'evasione fiscale, la pubblica amministrazione, per un'altra Elena ricerca e istruzione, dice da lì parte tutto, riorganizzazione della sanità pubblica secondo Veziuccio. Eric dice vedo già le riforme, tanti ma tanti bonus di tutti i tipi. Poi Andrea, 1 milione di dipendenti pubblici in meno in 20 anni e chiusura di tutte le società partecipate in perdita. Per Gabriele bisogna 1. Ridurre le tasse, 2. Ridurre le tasse, 3. Ridurre le tasse. Poi per Marco, sanità pubblica, istruzione e sicurezza, snellimento della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Per Carlo, lavoro, scuola, fisco. Per Marco, in generale, la fibra ottica. Insomma, tante proposte e, insomma, diciamo osservazioni e riflessioni da parte dell'ascoltatrice e ascoltatori. Secondo te, Alberto, molto in sintesi, i 4-5 riforme assolutamente necessarie in Italia? Saremo condizionati dal dover scegliere riforme che vadano nel senso della svolta digitale e della sostenibilità. La prima riforma è la scuola, sia l'hardware che il software, cioè tutte le scuole vanno rifatte e tutti i programmi vanno rifatti. I dati di Istat di oggi dimostrano che la scuola non ha appeal, non ha capacità di muovere l'ascensore sociale, ne taglia fuori troppi, non è il modo con cui selezioniamo la classe dirigente, da questo dobbiamo partire. Digitalizzazione, naturalmente dobbiamo connettere tutti i cittadini e tutte le città e tutti i borghi d'Italia. Il 33%, dice sempre l'Istat, delle famiglie non ha un computer e non è connessa, e noi ci siamo balloccati con lo smart working e l'e-learning delle scuole, ma il 33% delle famiglie l'ha visto come film ai telegiornali questa roba qua. E questo è sicuramente fondamentale. Rifare le città, le riqualificazioni urbane sono straordinarie occasioni di ripensamento e di investimenti colossali che fanno girare il PIL come non mai e aumentano enormemente la qualità della vita dei cittadini. Tra l'altro, a proposito della scuola, e poi ne parlo con un componente della task force del Ministero dell'Istruzione, è uscito l'ultimo rapporto dell'Istat che dice che l'Italia ha il triste primato in Europa per i giovani NEET, cioè quelli che ne studiano né lavorano, Alberto, ma ne parliamo dopo di questo. Invece vedo adesso un'agenzia, in questo momento lo scostamento di bilancio che sarà in discussione al Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere in corso, che il governo chiederà alle Camere, dovrebbe essere di 25 miliardi. Senti, questa cosa potrebbe, come ha detto Gualtieri, poi insomma fare in modo che, dice, finora si è stabilita la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite. È intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento di bilancio, quindi questo, per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2021. Cioè, il governo sta studiando una forma di rateizzazione multiperiodale su più anni e quindi costerà. Sta mettendo in campo 1 miliardo o qualcosa di più per il piano per la scuola, sta cercando di affrontare la crisi del turismo e sta appunto mettendo in campo la rimodulazione e il rifinanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali. Per questo c'è lo scostamento di bilancio di oggi. Chiaro. Poi capiremo se entro la fine di effetto nota ci sarà questa decisione sull'eventuale proroga dello stato di emergenza, se no poi ci saranno i giornali radio a seguire che aggiorneranno su questo aspetto così importante e così atteso. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. Ciao caro Grazie Alberto. A voi, buona Ciao, serata. Un abbraccio. Pausa di sospensione di riflessione come sempre e ci sentiamo tra pochissimo con i vostri messaggi, i vostri commenti. Parleremo per l'appunto di nuovo di scuola. Torno ratta come la folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberta Giordano con voi. Abbiamo quindi, siamo tornati sull'informativa di Conte relativamente all'accordo raggiunto in Europa per il Recovery Fund. Abbiamo abbastanza scandagliato l'argomento. C'è qualcuno che torna sulle riforme, moltissimi i vostri messaggi. Per esempio questo ascoltatore che dice la riforma più importante è l'economia sostenibile, il rinnovamento delle imprese italiane in tal senso fornendo anche nuovi posti di lavoro. Mentre Mauro Mauro dice in realtà quello delle riforme è un falso problema, bisogna cambiare la classe politica, cioè la responsabilità degli italiani, ma ci sono anche le riforme importanti. A questo proposito farò adesso puntato sull'istruzione, prima Alberto Rioli diceva che anche il mondo della scuola, dell'istruzione chiaramente deve essere riformato, a parte le questioni della ripartenza a settembre delle quali tra poco parleremo, ma c'è un dato decisamente sconfortante dall'ultimo report dell'Istat sui livelli di istruzione in Italia, di istruzione, emerge che il nostro paese ha il primato, triste primato europeo dei NEET, cosiddetti con termine anglofono. Sono infatti 2 milioni i giovani che né studiano né lavorano. Nel 2019 i giovani inoccupati e non in formazione erano il 22,2% della fascia tra i 15 e i 29 anni, quasi 10 punti percentuali in più rispetto alla media europea. E peggio di noi stanno solo Spagna, Portogallo e Malta. Allora voglio chiedere a Patrizio Bianchi, che saluto. Buonasera Bianchi. Buonasera, buonasera a lei Roberto. E grazie della disponibilità. Coordinatore della Task Force del Ministero dell'Istruzione, professore ordinario di Economia e Politica Industriale, Economia Applicata all'Università di Ferrara. Quindi, professor Bianchi, come si spiega questo fenomeno così triste e sconcertante, insomma, per il nostro paese? Beh, il nostro è il paese che ha anche un altro record negativo, è quello col grado di istruzione più bassa. E questo è dopo 20 anni in cui abbiamo considerato l'istruzione una spesa e non un investimento. E quello che vediamo è che siamo il paese che da 20 anni cresce di meno. Quindi bassa crescita, bassa istruzione e poi la mancanza di quel percorso fondamentale in tutti i paesi che è il percorso formazione professionale, istruzione tecnica superiore, che è quello che in realtà fa la differenza in tutti i paesi e la fa anche nelle regioni del nord, dove questo numero che lei ha detto di 22%, che è altissimo, in realtà è molto più basso. Il vero problema è che c'è molta differenza fra nord e sud. Poi leggevo che, a proposito, al di là appunto dell'istruzione, giustamente diceva tecnico, professionale, eccetera, nel nostro paese il 19,6% della popolazione ha un titolo di laurea a fronte del 33,2% che è la media in Unione Europea. Eh sì, questo è l'altro grande tema. Guardi, noi abbiamo un sistema educativo che in realtà è molto lungo, è molto più lungo degli altri paesi, perché abbiamo un anno di più nella scuola secondaria e quando abbiamo fatto la riforma della scuola dell'università, non abbiamo pensato che dovevamo passare da 4 a 3 anni per avere la laurea, ma quella è diventata la laurea breve, una seconda mano, una serie B, perché abbiamo addirittura allungato di 5 anni a 5 anni il corso, quindi i nostri ragazzi escono più tardi e poi soprattutto non riconoscono più nella scuola, e questo è un problema anche delle imprese, nell'università l'ascensore sociale, cioè quel tanto di più di scuola che ti dà quel molto di più di posizionamento sociale. E quindi c'è una disaffezione nei confronti anche dell'università. Che cos'è che va cambiato in breve, professor Bianchi? Da una parte io credo che sia necessario innanzitutto instaurare questo percorso professionale fino in fondo, quello che in Germania si chiama la scuola applicata, la Fachschule si chiama in tedesco, che in realtà non è un percorso di serie B, mentre da noi chi fa la formazione professionale è considerato di serie B. Questo fatto di mancare di un percorso così legato alle imprese, così legato alla produzione, beh, insomma, dà sempre questa idea di una scuola che è da un'altra parte. E questo fa male a tutti, fa male anche al liceo, fa male a tutti. E seconda cosa, questa idea che tutto sommato la scuola abbia un proprio percorso di vita, non sia dentro il territorio, non sia radicata nel territorio e quindi anche nella vita dell'economia. Queste due cose rendono la scuola italiana diversa e quindi bisogna, da una parte, io credo andare avanti con quel disegno di autonomia che non voleva dire liberi tutti, ma voleva dire essere più responsabili rispetto ai ragazzi, dando obiettivi uguali per tutti nel paese, ma avendo chiaro che una scuola di montagna in Val d'Aosta è diversa da una scuola tecnica a Palermo. E dall'altra parte più legami col territorio, ci vuole più legami col territorio. Professore, invece, spostandoci su un altro argomento, la ripartenza a settembre, questa storia dei nuovi banchi, perché oggi i produttori hanno lanciato l'allarme, i produttori di banchi, leggendo il bando di gara indetto dal commissario Arcuri per l'acquisto di banchi monoposto e seduti destinati alle scuole italiane, viene da chiedersi, dicono le aziende rappresentate da Asso Ufficio di Federlegno Arredo e Asso Didattica, dice viene da chiedersi se prima di stendere questo bando qualcuno si sia posto posto il problema se sarebbe andato deserto, ma i numeri dicono che il bando andrà sicuramente deserto perché è una missione impossibile fornire 3 milioni di banchi in così poco tempo. Sentiamo questo passaggio di Gianfranco Barinelli, presidente di Assoufficio, intervistato dalla nostra Anna Marino. Richiedere la consegna di 3 milioni di banchi per le scuole, che vuol dire produzione e consegna in tutte le scuole italiane, è semplicemente una cosa assurda che non ha nessuna possibilità di essere realizzata. E anche ammettendo che le società produttrici di materie prime, quindi parlo di pannelli cucciolari, di strutture metalliche, eccetera, possano fornire, lavorando come probabilmente potrà succedere anche nel mese di agosto, è fuori dalla possibilità di poter produrre un quantitativo di quel genere e soprattutto di poterlo installare nelle varie scuole italiane, da Canicattì a Bolzano. Commetto che il bando andrà deserto. L'industria italiana potrebbe soddisfare la produzione in 150-200 mila banchi entro la fine di settembre e poi occorre il tempo della consegna. Professore, qui verrebbe a dire c'è un problema a Houston? Houston, c'è un problema? Allora, con i banchi. Dunque, questo razzo fa fatica a partire. No, guardi, mi faccia dire due cose. Sì. Noi come comitato non ci siamo occupati dei banchi, non era nel nostro mandato. Noi dovevamo occuparci dei contenuti. E i contenuti ci dicono che la scuola che deve ripartire è una scuola che affronti anche i problemi che lei ha detto prima, non sono altri temi. Il tema dei ragazzi che devono trovare nella scuola dei contenuti adeguati alla nostra epoca. Dopodiché, certamente il commissario Arcuri ha fatto i salti mortali con le mascherine, probabilmente lo farà anche con i banchi, ma oltre ai banchi io credo che dobbiamo occuparci di che cosa studiano i nostri ragazzi. I nostri ragazzi in quest'epoca in cui tutto è scritto su Wikipedia hanno meno bisogno di informazioni e più di capacità critiche, hanno più bisogno di utilizzare bene tutti gli strumenti che hanno e hanno bisogno soprattutto di ritrovare e di fare comunità. Questo probabilmente si farà con i banchi di Arcuri, forse si può fare anche partendo invece dai loro bisogni di persone che devono vivere insieme. Ce lo auguriamo, insomma, che si riparta nel migliore dei modi da un punto di vista e dall'altro. Grazie professor Patrizio Bianchi. Grazie a tutti voi, grazie. Ricordo, grazie. Coordinatore Task Force del Ministero dell'Istruzione. Buon lavoro professore, c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso invece vi dico che una delle notizie italiane di oggi che più hanno suscitato sconcerto è quella relativa all'inchiesta sulla caserma dei carabinieri di Piacenza, Piacenza Levante. Nell'ambito infatti di questa indagine sono stati arrestati 7 carabinieri con queste accuse: traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali, peculato, abuso d'ufficio e falsità ideologica. Intanto saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, in collegamento. Ciao Roberta, ben ritrovata. Ciao, ben ritrovata a te. Allora, la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha detto: siamo di fronte a reati impressionanti se si pensa che sono stati commessi da militari dell'Arma dei Carabinieri. Ma in questo pezzo di intervista di Raffaella dice anche: fatico a chiamarli carabinieri. Sentiamo questo passaggio della tua intervista, Raffaella. Questa indagine ha fatto male a tutti noi magistrati, perché ha fatto male psicologicamente, perché insomma tutti noi crediamo nell'arma, abbiamo vissuto anni investigativi sempre in costante compagnia dell'arma. Trovarci di fronte a una situazione del genere e prenderne atto non è certo facile, ma quello che voglio ribadire e sottolineare è che la fiducia nell'istituzione arma è intatta, ecco. Purtroppo questi erano un gruppo di criminali, faccio fatica a chiamarli carabinieri. Questo, Raffaella, no? Ha detto la procuratrice. Poi ci sono intercettazioni che lasciano veramente a bocca aperta, insomma, in questa indagine. Eh sì, devo dire che forse mai come in questo caso, ancor prima delle parole, sono certi suoni a dare il senso di quello che è stato scoperto. Sono i suoni con l'eco degli schiaffoni che è rimasto impresso nel captatore informatico, schiaffoni che questi carabinieri davano ad alcuni, soprattutto ad alcuni pusher fermati nel momento in cui, questo almeno stando alla ricostruzione della procura di Piacenza, questi. Pronto Raffaella? C'è qualche problema? Riprendiamo Raffaella Calandra perché ci sta appunto spiegando Che cosa avveniva in questa caserma, secondo la ricostruzione, per l'appunto degli inquirenti? Si parla appunto di torture, di botte, e tra l'altro non solo, diciamo, per punire, che pure non è legittimo, i pusher, spacciatori, eccetera, ma per spacciare a loro volta, avere loro il monopolio dello spaccio degli stupefacenti. Vediamo se riusciamo a ricollegare Raffaella. Niente, c'è un problema? Cioè, ecco, Raffaella, prego. Sì. Eccoci qua. Allora, dicevo, non so dove mi avete perso, che appunto si sentiva l'eco in questi degli schiaffoni delle botte a questi pusher. Esatto, sì. Degli schiaffoni delle botte a questi pusher che non accettavano di stare nella loro rete di pusher di clandestina di spaccio di droga, mentre invece coprivano quelli che erano in loro fiducia. Ed infatti è stato contestato anche il reato di tortura. Ma oltre a questo, a fare particolarmente male è il fatto che all'interno di quella caserma che per la prima volta è stata sequestrata, cioè un luogo dello Stato che è stato sequestrato dai magistrati, avvenivano anche reati come appunto gli arresti illeciti, cioè persone che venivano senza effettiva motivazione fermate ed arrestate, questo perché si sentivano intoccabili. A noi non arriveranno mai, dicono in alcune di queste intercettazioni, come a darsi una forma di rassicurazione a vicenda. Ma invece altre forze dell'ordine hanno ricostruito tutto quello che avveniva, e il comandante generale dei Carabinieri, il generale Giovanni Mistri, ha assicurato che davanti a questi reati gravissimi ci sarà il massimo della severità. Ecco, è stato veramente sconcertante quello che è stato ricostruito in questa inchiesta. Ovviamente si tratta soltanto di inchiesta, ma gli elementi raccolti sono effettivamente tanti, e ci sono questi audio che parlano forse ancor più di tante parole, in cui loro stessi ammettono di aver realizzato, messo in piedi un'associazione a delinquere e di aver messo in atto delle scene tipo Gomorra, con episodi anche di estorsione. Tra l'altro, Raffaella, chiudo velocemente dicendo che sempre in questa tua intervista la procuratrice Pradella, lei dice è un fatto doloroso anche perché è avvenuto in un momento in cui c'era il lockdown, Piacenza ha vissuto con molta sofferenza, sappiamo, una delle città, esatto, più colpite dal coronavirus, certo. E loro che continuavano a pensare a questi loro interessi illeciti, a picchiare, a torturare, eccetera, almeno secondo appunto questa indagine. Grazie intanto a Raffaella Calandra. No, appunto a quanto tocca ad un funzionario dello Stato. Grazie Raffaella. Grazie a te. Ciao Roberta, Raffaella, ciao. Buona serata. Oh, svaghiamoci un po' con il nostro Dario Ricci, che ci aggiorna sulle partite di Serie A maschile. Dario, come stanno andando? Guarda, c'è poco da svagarsi, Roberta, perché mi dai la linea quando su tutti i campi, i 5 campi impegnati questa sera per la 35esima di Serie A, siamo intorno all'11esimo di gioco, su per giù ancora non c'è stato nessun gol, cioè Inter Fiorentina, Lecce Brescia, Sampdoria Genoa, SPAL Roma e Torino Verona sono tutte ancora sullo 0-0, mentre si è conclusa chiaramente la partita delle 19:30 di cui avevo dato aggiornamenti nel precedente collegamento, vittoria del Parma per 2-1 proprio grazie a quel rigore decisivo di Kulusevski a un paio di minuti dalla fine. Praticamente è stata la partita dei rigori, perché il Parma era passato in vantaggio sul rigore con Caprari alla fine del primo tempo, e sempre sul calcio di rigore il Napoli, grazie al suo capitano Lorenzo Insigne, aveva trovato il momentaneo pareggio, poi la rete di Kulusevski, e per il resto ahimè non riesco a raccontarti altri gol. E allora gol. Ti do io una notizia, Dario. Lo so che ce l'hai in caldo. Visto che domenica alle 16:30 con la tua Olimpia, la tua trasmissione, parlerai di calcio femminile, ti dico che Serena Williams, grandissima, enorme campionessa di tennis mondiale, e Natalie Portman, premio Oscar, attrice meravigliosa, si lanciano nel mondo del calcio e investono in una nuova squadra femminile a Los Angeles. Qui parliamo di cose. Una buonissima idea, anche perché questa squadra femminile dovrebbe unirsi alla Lega nel 2022, avrà praticamente il pacchetto azionario nelle mani di tutte donne. La curiosità è che Serena Williams ha coinvolto nell'affare non solo il marito Alexi Ohanian, e questo sarebbe anche logico, ma anche la figlioletta di due anni, mi sembra. Alexis Olimpia, quindi vedi che collegamento, in onore chiaramente al mio programma, che ha appena 2 anni, quindi insomma, diciamo, lavoro assicurato per la piccolina, e al di là delle mie battutacce, esperimento assolutamente inedito e interessante di cui parlerai Olimpia domenica alle 16.30, la tua trasmissione, doverosamente, ne è vero. Grazie caro Dario Ricci, grazie, buona trasmissione, noi ci risentiamo alle 22.00.